Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa, da Michele Regia. Buonasera Michele, grazie per il supporto tecnico questa sera. Dunque, in collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e buonasera cari amici radioascoltatori. Dunque Alessandra, cari radioascoltatori, questa sera sarà un giro di boa calcistico, striscia calcistica qui a Giro di Boa per commentare lo scudetto vinto dalla Juve domenica scorsa con una giornata di anticipo. Saranno molti i temi e gli spunti di discussione questa sera con i nostri ospiti, oltre al campionato, quindi, che si è praticamente concluso con una giornata di anticipo. Parleremo degli europei che inizieranno i primi di giugno e sicuramente parleremo anche dello scandalo calcio scommesse che continua. I nostri ospiti di questa sera, dunque, innanzitutto ne parliamo con un ospite d'eccezione in collegamento da Ginevra, il nostro direttore Roberto Giava. Buonasera Roberto e bentornato. Ti ringrazio Annalisa per il titolo ancora presente direttore, in realtà sono un ex direttore della radio, mi fa però tanto piacere essere qui ospite vostro questa sera, in particolare anche per il tema che si preannuncia caldissimo. Sono Roberto Giava sarà sempre il nostro direttore, sicuramente tema caldissimo qui dallo studio di Bruxelles, oltre a Michele Merloni, quindi in regia questa sera, Maurizio Molinari, giornalista e curatore di Onde Corte. Buonasera Maurizio. Buonasera ai radioascoltatori. Dunque direi di cominciare con una domanda: qual è il segreto della Juventus di Conte, che dal settimo posto dell'anno scorso si è laureata campione d'Italia? E giro questa domanda ai nostri tifosi juventini qui in studio, Maurizio e Michele. Il segreto forse è proprio Conte, il cambio di questo allenatore, che è sembrato un grandissimo motivatore, è riuscito a motivare la squadra. Forse l'altro segreto può essere l'innesto di Pirlo, e insomma con un paio di innesti, un paio di acquisti azzeccati e soprattutto l'acquisto di questo nuovo allenatore ha fatto sì che da una squadra che per due anni non si è riuscita a qualificare per la Champions League, che l'anno scorso non ha giocato neanche, che in questa stagione non ha giocato neanche l'Europa League, è riuscita a vincere lo scudetto. Inoltre c'è da dire che la Juve non ha avuto le coppe europee, quindi si è potuta concentrare solo sul campionato. Ma io una volta tanto sono d'accordo in tema calcistico con Maurizio, e per me il segreto è stato veramente Conte, la sua juventinità. Lui è arrivato come diciamo una furia in questa società un po' demotivata, in questa squadra un po' demotivata almeno a livello tecnico, e i giocatori lo hanno seguito. In tutto l'anno non c'è stato uno screzio, non c'è stato una discussione, tutti dietro l'allenatore e tutti diciamo compattati nella società come è stata la Juve per molti anni in passato. E in più la Juve ha anche avuto un pizzico di fortuna, non avendo infortuni. È una squadra che è sempre stata sana, diciamo così, da un punto di vista muscolare, e questo in una stagione lunga, soprattutto per gli altri impegnati nelle coppe, ha avuto un ruolo. Ecco, questo per me i due segreti di questo campionato. Se posso intervenire, Michele, tu non spieghi però il terzo segreto, che è quello di Fatima, i capelli di Conte. Se guardate le fotografie del vostro allenatore Conte alcuni anni fa, era orribile, pelato. Adesso non si è capito, lui a quale santo si voti per uno farsi crescere i capelli e due far vincere anche la Juventus, perché mi sembra, non so delle due qual è la cosa che richiede più la dose di miracoli in tutto questo. Direttore, sono Alessandra, mi congratulo con lei per il suo ritorno sulle onde di Radio Alma. Avrei una domanda. Come tu ben sai, io sono di fede rossonera, dunque ho una domanda per te, sapendo che sei il cosiddetto cugino povero. Volevo sapere dalla tua esperienza, dopo Juve-Milan c'è un buco di quasi 20 punti per trovare la terza squadra in classifica. La Serie A italiana sta diventando un po' come la Liga spagnola. Secondo te Ma niente affatto. Sì o no? E quali sono i motivi? Ma niente affatto. C'è il, allora, la Juventus condivide ovviamente un'analisi pacata finora, perché fino adesso stiamo riuscendo ad avere un tono abbastanza fresco ancora in trasmissione. L'analisi pacata dei miei due ex colleghi è perfetta, cioè, l'innesto di Conte, l'innesto di Pirlo, e c'è qualcos'altro anche. La Juventus ha giocato un po' con il coltello fra i denti di suo, perché ha passato 5 anni di tra inferno e purgatorio, e chi tifa squadre come per esempio l'Inter sa che quando si passano degli anni di M e dei puntini, poi dopo se non ci sono condizionamenti vari, la squadra dà il 200% sul piano fisico, sul piano muscolare, eccetera. E il Milan ha fatto il suo campionato cercando di tenere testa alla Juventus, e le altre si sono perse, chi per un motivo e chi per l'altro sta facendo. Il Napoli non è riuscito a mantenersi sui ritmi che annunciava all'inizio. L'Inter ha cambiato 3 allenatori e ha avuto una striscia, mi pare, di 8 sconfitte consecutive, che è da record, e la Roma pure, non da meno, con l'allenatore spagnolo Enrique, che tra l'altro si è appena dimesso oggi, notizia fresca, non è riuscita a mettere in piedi un'ossatura di squadra, non dico vincente, ma almeno capace di competere. Sono incidenti occorsi a tutte le altre squadre, e volevo aggiungere una cosa, mi hai parlato di Juventus e Milan, fra loro ci sono pochi punti, è vero, c'è anche il gol di Muntari che era gol non gol, ci sono varie cose che fanno un po' bollire il sangue ai tifosi di fede rossonera, e però c'è l'Inter che ha tolto 6 punti all'una per darne 6 all'altra, che ha determinato in qualche modo un bilancio fra le due squadre. La Juventus è a 4 punti sul Milan, a carte invertite il Milan oggi avrebbe 8 punti sulla Juventus. Ci sono tanti modi poi di interpretare anche i rapporti di forza tra la prima e la seconda. Io non credo che la Juventus abbia stravinto il campionato, come perché ripeto, ci sono molti episodi che vanno visti. Non ha stravinto, la Juventus è la stessa che nella prima parte del campionato era la squadra del Mister X, Conte era chiamato Mister X per via di una serie di pareggi che faceva anche con le squadre di bassa classifica in casa, quindi non mi sembra, ecco, Conte è un grande motivatore, ma non mi sembra che abbia stravinto il campionato. Adesso la Juventus ha, se non sbaglio, 84 punti, se non vado errato, e l'Inter 2006-2007 ne ha 99, ha vinto con 99. 81 ne ha la Juventus. C'è ancora da fare, cioè, voglio dire, adesso quest'anno è andata così per il Milan, è andata così anche per l'Inter e per le altre squadre. La Juventus ha, direi giustamente, perché meritava, e lo meritava il pubblico, lo meritavano i tifosi, lo meritava la dirigenza, lo meritava Marotta, eccetera, vinto un campionato che francamente mi aspettavo già già da dicembre che finisse così. Vorrei dare l'opportunità a Michele Maurizio di ribattere la tua affermazione, Roberto, la Juve non ha stravinto il campionato. Maurizio. Io sono d'accordo con Roberto che questo non è un campionato stravinto. Sugli episodi non vorrei entrare troppo, perché è vero che c'è stato il gol di Muntari, ma è anche vero che alla fine il Milan deve biasimare solo se stesso, perché ha perso il campionato perdendo in casa con la Fiorentina e pareggiando col Bologna, e ha avuto, diciamo, molti episodi anche a suo favore. Ricorderei che la Juve in questo campionato si è lamentata per diversi rigori a parere, insomma, della società, non dati, e la Juve ha avuto solo 2 rigori nonostante abbia avuto un possesso di palla molto in quasi tutte le partite ha avuto un possesso di palla superiore agli avversari, sempre attaccato. Insomma, la società, diciamo, che si è lamentata per questo, come il Milan si è lamentata per il gol di Muntari, però poi il Milan in altre partite, diciamo, che ha avuto degli episodi a suo favore. Quindi lascerei un attimo da parte il discorso degli episodi Direi che secondo me lo scudetto il Milan a un certo punto l'ha perso più che la Juve vincerlo, perché si trovava a un certo punto prima in classifica, ha perso 5 punti in due partite con Fiorentina e Bologna, e quello è stato il sorpasso chiave della Juve, che a un certo punto quasi non ci sperava più. Poi ricordiamo che per la Juve sarebbe stato un successo anche il secondo posto a un certo punto, perché comunque avrebbe voluto dire Champions League, diciamo che potevano accontentarsi, sono riusciti a vincere lo scudetto. Per quel che riguarda io visto che Roberto diceva insomma che non c'è abbastanza pepe in questa puntata, io poi vorrei anche introdurre un po' il discorso, ma sono 28 o 30 questi scudetti che ha vinto la Juve? No, lo vorrei sapere da te. Non so cosa, per me sono 30, non so cosa pensa Michele. Ma non lo so, per me in realtà non fa una grandissima differenza alla fine, che forse perché ho la speranza che i prossimi due arrivino non troppo lontani nel tempo e che quindi così si risolva questa situazione. No, però devo dire che non so se il secondo posto sarebbe stato comunque un successo per la Juventus, perché non so se ti ricordi le parole di Boniperti il giorno dell'inaugurazione dello stadio, ossia che vincere non è la cosa importante, è semplicemente l'unica cosa che conta. E questo credo che sia, ecco, un grande merito credo di Conte, cioè di avere reinstillato, si può dire così, nei giocatori un po' l'attesa, l'aspettativa di vincere, che invece era mancata dopo questi 6 anni, diciamo, prima all'inferno e poi in purgatorio. E devo dire che al di là degli episodi che poi accompagnano ogni campionato, questo scudetto della Juve è meritato, perché ha giocato bene durante l'anno, con una rosa forse più sana, con meno infortuni ma forse di minore qualità rispetto a quella di Milan e Inter, e poi perché anche insomma credo che sia simbolico il fatto che abbia vinto al primo anno col suo stadio nuovo di proprietà, al primo anno. Forse questo è una strada che può essere seguita anche da altre società di calcio, sia quella di differenziare un po' le fonti dei propri introiti e fare altre cose avendo uno stadio di proprietà. Che posso aggiungere però, la Juventus che adesso gode di uno stadio di proprietà, che ha una dirigenza che si chiama Agnelli, questo va detto, perché è tornato un Agnelli alla guida della Juventus, guarda caso ha rivinto lo scudetto, però la Juventus avrebbe avuto ha avuto l'occasione di mostrarsi una squadra di stile, forse di un antico stile che non ha più, perché leggendo 30 su tutti i quotidiani, su tutto sport, parlo ovviamente di quelli di marca juventina, parlando, ascoltando la dirigenza che sul campo di Trieste, quando la Juventus ha vinto domenica scorsa lo scudetto, parlavano già, siamo già a 30, avremo la terza stella sulla maglia, è davvero una caduta di stile non da Juventus, non... Questo mi dispiace dirlo, però guarda, essere lì a rivendicare ti dico 30, io vedo anche le pagine di tutti i miei amici Facebook che hanno messo 30 o 3 stelle, si sono riempiti di stelle, le pagine di Facebook si sono riempite di stelle in questa settimana. È una grandissima caduta di stile, perché intanto la PGC decreta che gli scudetti sono 28. Intanto non sono due che mancano, ma al limite forse uno, perché uno è stato lo scudetto revocato, quello del 2004-2005. Lo scudetto 2005-2006 non è neanche stato assegnato alla Juventus, manca proprio l'assegnazione alla Juventus di quel titolo. Quindi anche a voler dire torniamo, facciamo giudizio d'appello, di Cassazione, quello che volete, di tutte le corti di giustizia sportiva e ordinaria, anche volendo è... Lo scudetto 2005-2006 non è mai stato assegnato all'Inter, semmai dovrebbe essere alla Juventus, semmai dovrebbe essere tolto all'Inter. Ma io... cosa che scatenerebbe un altro livello di incertezza in tutti gli ordini. Quindi è una questione, fatemelo dire, è una questione davvero pelosa di attaccarsi a non aver mai accettato, nessuno ha mai accettato della Juventus, finché lo fai il tifoso, per carità, è una cosa normalissima, legittima, il tifoso guarda il campo, non guarda le magagne, però che la società nel momento della vittoria di Trieste inizi subito a macchiarsi dicendo guardate che sono 30, che mettiamo 3 stelle sulla maglia, è una caduta di stile, ma verticale, e tra l'altro rischia anche il deferimento, Marotta e company rischiano anche il deferimento perché vanno contro dei regolamenti stabiliti, sanciti, convalidati a vari livelli dalla FIGC. Ma questo è... Roberto? Questo è... Io ti dico la mia opinione, che la Juve non abbia più lo stile di un tempo, questo è vero, lo stile del Gianni Agnelli, Boniperti, Trapattoni, ma anche quello era un calcio diverso, io penso. Credo che la dirigenza della Juventus abbia spinto molto e sempre abbia spinto su una specie di revisione di ciò che è stato deciso nel 2006, più per ricompattare la propria tifoseria che per menar battaglia, diciamo, nei vari tribunali, perché i tifosi della Juventus, che sono tanti, hanno attraversato diversi anni, diciamo così, un po' deprimenti, devo dire la verità, dal punto di vista calcistico. Quindi quello che sta, a mio avviso, è un'interpretazione, quello che sta facendo la dirigenza juventina adesso è come una specie di suonare il corno di battaglia, cioè tiriamoci su di morale, ritorniamo ad essere una squadra importante, una squadra che vince, anche perché poi è importante che vincere anche da un punto di vista di marketing, perché se tu come la Juventus non vinci per 6-7 anni, perdi qualche migliaio di tifosi, di giovani tifosi in Italia e milioni di tifosi in Cina o in Giappone, quindi l'essere, come dire, il proporsi come una società piuttosto aggressiva ha anche una specie di ritorno economico. Io do questa interpretazione anche. Hai perfettamente ragione, però questo quadra con l'affermazione precedente, che non parliamo più di uno stile che un tempo c'era, perché adesso a suonare il corno di battaglia sembra che ci siano Bossi e Maroni alla Juventus, che vanno lì per cavalcare le masse, le onde, no? Ma io però chiedo un'ultima battuta su questo specifico tema, perché abbiamo anche altre domande da porvi. Io, Maurizio, però, Roberto, a questo punto, chi delle squadre, diciamo dei dirigenti delle grandi squadre italiane ma anche straniere, vedendo quello che succede per esempio con il Real Madrid, chi ha questo stile? Purtroppo io sono d'accordo con Michele, che dice che il calcio è cambiato rispetto ai tempi di Gianni Agnelli, di Trapattoni, di Boniperti, e ricordo anche un'altra cosa, che e questo non sono io a dirlo come, diciamo, tifoso della Juve, ma c'è un po' questa scuola che dice le sentenze di Calciopoli è stata la prima volta che in Italia è stata fatta una pseudo giustizia in un'estate, quando in Italia per qualsiasi tipo di sentenza ci si mette degli anni, lì si è cercato un capro espiatorio. Quindi io, diciamo, condivido l'analisi di Michele, secondo me quello che la Juve sta facendo su questo tam-tam della terza stella è più una strategia per, diciamo, ricompattare i tifosi e anche diciamo per dare l'immagine di un club vincente. Però tu i tifosi li compatti vincendo un anno, vincendo l'anno dopo e l'anno dopo ancora. No, allora i tifosi li compatti anche dicendo, insomma, che gli scudetti vinti sul campo sono fantasmi. No, dove ti va di questo passo? Cioè, tra 10 anni sul manuale, sugli albi, cosa avremo? Sempre chi dice magari 35, chi dice 33. È una situazione che va in qualche modo risolta. A parte questo, piacerebbe che qualcuno della Juventus si levi e dica 28-30, come hai detto te, Michele, inizialmente, mi ha fatto molto piacere, fa veramente poca differenza, perché tutti gli altri sono molto più, hanno molti di meno. Del Piero l'ha detto. Però ecco, fa meno male, cioè. Fa meno male, fa più bene al calcio, Roberto, Michele e Maurizio, direi di chiudere ora questo aspetto. Alessandra, ci sei? Sì, io avrei una domanda giusto per uscire da questo vicolo cieco del 28, 30, 29 e avrei una domanda da fare a Roberto, visto lui prima parlava di motivazione, ha citato l'Inter dei 99 punti. Si sente un po' la mancanza dello Special One, si sente la mancanza di Mourinho. Forse è anche il caso di fargli i complimenti, visto che credo sia uno dei pochissimi sulla faccia della terra ad aver vinto quello che ha vinto in 5 o 4 diverse lighe, no? Sì, vabbè. Purtroppo quest'anno gli mancherà la Champions, il campionato. Ma ha vinto il campionato, cosa che con il Barcellona di questi tempi non è assolutamente scontato, evidente. Se manca Mourinho, beh, quando vedo che una squadra come la Juventus, come ha detto Maurizio prima, dal settimo posto passa al primo nel giro di un anno, è gran parte del merito che fa l'allenatore. Questo conforta e conferma ciò che pensavamo noi interisti, che pensavo io personalmente anche come osservatore, che una buona parte del merito dell'Inter, che ha vinto nel 2010 qualsiasi competizione le fosse capitato a tiro, era lo Special One, era l'allenatore. L'allenatore non è soltanto colui che imposta il gioco, peraltro l'Inter di gioco non ne ha mai espresso granché, storicamente è una caratteristica e una peculiarità della squadra. Negli ultimi 20 anni forse non ha mai espresso giochi di altissimo livello, però è ovvio, quando c'è un allenatore che ti tiene con i nervi tesi, sempre in moto permanente, tutti i giocatori erano in moto permanente, correvano dall'inizio alla fine della partita. Chi entrava, chi subentrava dalla panchina, eccetera, correva dall'inizio alla fine. C'era il Toto che difendeva, c'era Melito che difendeva, facevano il campo su e giù. Questo è merito di chi sa impostare psicologicamente la squadra, e lì c'è il ruolo dell'allenatore, che non tutti hanno. Si può anche essere tecnicamente eccezionali, ma bisogna avere quel carisma, quel fascino anche umano. Mourinho ce l'ha. Conte sembra averlo, adesso aspettiamo i prossimi anni, è giovanissimo come allenatore, non proprio in esterno. Conte ha già portato in Serie A il Bari qualche anno fa, quindi sì, i meriti ce li ha, le caratteristiche per diventare un nuovo Special One ce le ha tutte. Minuti alla fine, Alessandra, io da studio ho un'ultima domanda secca per tutti i nostri tre ospiti, poi ti passo la parola in caso tu abbia un'ultima domanda. La mia domanda è come si è detto in apertura, gli europei si avvicinano, inizieranno i primi di giugno, Michele, Roberto e Maurizio, un vostro pronostico su chi vincerà. Michele. Allora, Gary Lineker, grande attaccante inglese, diceva: il calcio è uno sport semplice, si gioca in 11 e vincono i tedeschi. Era vero al suo tempo, 20 anni fa, è da quasi 20 anni che la Germania non vince niente a grande livello internazionale, però potrebbe essere questo l'anno buono per i tedeschi, quindi io voto Germania. Roberto? Italia. Maurizio? Non ho dubbi. Io voto Olanda. E nessuno vota Spagna, è strano. Eh no, perché a Messico che in Argentina, siamo salvi. Beh, avremo sicuramente modo di ridiscutere questi vostri pronostici tra qualche settimana. Alessandra? Sì, volevo semplicemente sapere quali potrebbero essere i tre nomi del calciomercato estivo, se ce ne saranno. Magari forse più gli allenatori che i giocatori, a questo punto mi viene da dire, visto che probabilmente l'Inter guarderà in giro, la Roma pure dovrà incominciare. Roberto? Intanto si è liberato Guardiola. Ottimo! Dalla panchina del Barcellona. Allora, per quanto gli interisti cominciano a voler bene a Trama, non so quanto dovesse essere davvero disponibile Guardiola possa puntarla. Per la Roma, francamente, non ho idea. Io mi auguro torni Spalletti. Ragazzi, qui dallo studio, Maurizio. A Guardiola dice che voleva prendere un anno sabbatico, lo vedo comunque difficile in Italia per quanto riguarda i costi. L'Inter a quanto pare si sta orientando su campagne acquisti low cost. Per la Roma sembra debba essere Montella il prossimo allenatore, anche se il Catania, il Pulvirenti, il presidente del Catania, ha detto che Montella resta a Catania, quindi vedremo. Secondo me i nomi caldi del mercato sono giocatori che adesso giocano in Inghilterra, anche se poi chissà se verranno. Tevez, che ancora Milan sembra interessata, la Juve sembra interessata, soprattutto Suarez e Van Persie, anche se io ho i miei dubbi che soprattutto Van Persie possa lasciare l'Arsenal e per la Juve poi. Io dichiaro la mia ignoranza sulle questioni di calciomercato. Alla fine i grandi nomi saranno quelli che andranno nelle tre squadre più seguite, Juve, Inter e Milan. La Juve, fra le altre cose, ha bisogno di un attaccante, quindi anche un nome che ai tifosi può piacere. Non so, si parla di Higuain, si parla di Suarez, non sappiamo, aspettiamo il calciomercato, durerà 3 mesi e mezzo e tutti i giorni si parlerà di questo. Quindi. Abbiamo solo iniziato, eh? Bene, cari radioascoltatori, siamo giunti in chiusura e sicuramente ci saranno altre opportunità nel prossimo futuro di parlare di calcio e non solo, di parlare di sport qui a Giro di Boa. E vorrei ringraziare i nostri ospiti, innanzitutto Roberto Giava, è stato un piacere riaverti ai nostri microfoni e speriamo di riaverti presto. Ti ringrazio, un saluto a tutti. Maurizio Molinari e Michele Merloni, grazie. E Alessandra, non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori, alla prossima puntata. Buona serata a tutti.